di colpo nella vita ci sei solo tu, in uno stato confuso ci dormo su, e se provo a non pensarti ti presenti qui. E mi chiedi cosa mi aspetti da te, e mi chiedi risposte ai tuoi perché, io ti dico che risposte non ho, lo sai, e ti chiedo un po' di viverci day by day, ogni volta che siamo due, Dio e non noi, si presenta la rabbia dei giorni bui, e non sentire più quel mondo che sta intorno a noi, è come avere un po' paura dell'effetto che hai, sopra un foglio di un diario di qualche anno fa, testi che io già da allora dedicavo a te, chissà cos'è che mi fai, you're a what I need, melody, you are my life and my only dream, and inside my heart and in my head that's you. Listen to my music, traveling on your thinking, and if I think you, my dreams come true. Oh, oh. Ooh. E di colpo nella vita ci sei solo tu, come un colpo che spari e non pensi che se colpisci un sentimento lui non muore. Aspetti da te e mi chiedi risposte ai tuoi perché, io ti dico che risposte non ho, lo sai, e ti chiedo un po' di viverci day by day, sopra il libro che io scrivo con te, pagine che ormai si scrivono da sé, e non sentire più quel mondo che sta intorno.